C'è che c'è un equilibrio stabile. Che cos'è che ci spinge a vivere? No, non c'è soluzione ai tuoi perché. Tu sei lì e rimani immobile. Scegli la strada e comincia ad andare. Il mondo corre e non vuole aspettare. Prendi i guantoni ed inizia a lottare. Si sarà dura ma tu non mollare. Ci saranno giorni in cui ti senti perso. Pagherai il conto per essere diverso. Dovrai combattere il destino avverso. Sotto quel cielo vedi l'universo. I sogni più liberi sono possibili. Quelli più limpidi sempre più fragili. Intanto cerco il modo per andare via, ma non lo trovo, no, ma non lo trovo. C'è che c'è un equilibrio stabile. Che cos'è che ci porta a vivere? Se la vita è un gioco comincia a giocare. Se la vita è un caso devi tentare. Se invece è una prova basta provare. La vita va a tempo e non si può fermare. Tanto lo stesso passano gli anni. Conta soltanto non aver rimpianti. Troppe le scuse, troppi gli inganni. Quando non sai chi davvero hai davanti. Le strade possibili impercorribili. I sentieri più facili impenetrabili. Le cose più labili imprevedibili. Le emozioni più stabili impercettibili. Intanto cerco il verso per scappare via, ma non lo trovo, no, ma non lo trovo. E cerco l'equilibrio per andare via, ma non lo trovo, no, e ora non cambio idea.